Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, le 7:21 minuti. Eccoci qui, bentrovati. E se vi siete svegliati adesso, il mio urlo di battaglia è sempre questo: razza di debosciati, benvenuti. E comunque siamo qui a leggere i giornali con voi. Vi ricordo che oggi alle 8:15 prenderemo una pausa di respiro da questa politica rissosa. Tanto adesso c'è la rassegna stampa, la politica esonda dai giornali anche oggi. Parleremo di un'altra cosa. Parleremo, dopo che su quello che è successo a Bologna, con una serie di ragazzi che si sono dati appuntamento per una mega rissa organizzata su un social network. Ci vogliamo chiedere, e torniamo su questo tema, ma voi sapete, cari genitori, cosa fanno i vostri figli quando accendono il computer e vanno su questi siti, social network, scambi di opinioni, chat? Perché non è neanche escluso, è successo in passato, che alcuni adolescenti siano arrivati addirittura a togliersi la vita dopo che sono stati insultati, cyberbullati, si potrebbe dire, no? Questo problema del cyberbullismo, perché sono stati presi di mira da messaggi, insulti continui. Insomma, è un qualcosa che per i nostri figli deve essere maneggiato con estrema cura. Ne parleremo alle 8:15 con ospiti. Ora i giornali. E i giornali in questo martedì 17 settembre aprono in maniera variegata: il Sole 24 Ore, Ilva, il governo preme sui Riva, la vicenda dei Riva e la vicenda dell'Ilva con i lavoratori ancora appiedati, senza Riva è anche il titolo del Manifesto. C'è chi sceglie, un po' azzardando questo titolo, di puntare sulla Concordia. Perché dico azzardando? Perché i giornali sono stati chiusi ieri, nel frattempo la Concordia al Giglio è stata messa in asse questa mattina, e infatti il Corriere della Sera ha un titolo francamente già superato alle 7:23 del mattino: la difficile risalita della Concordia. Questo è il titolo di prima pagina, quando invece la Concordia è già in asse. L'alba della Concordia, il secolo XIX invece così si è buttato un po' in avanti e ci ha azzeccato, diciamo. La politica invece: Repubblica, Letta al PDL, non farò il parafulmine. Il Giornale, la svolta di Berlusconi, rinasce Forza Italia. Il Fatto Quotidiano, il video ricatto del condannato. È il video atteso di Berlusconi questa mattina. L'Unità, Letta, non si gioca col paese. La Stampa, Letta, il governo in bilico, per l'IVA stop complicato. Il Messaggero, aumento IVA dal 2014, meno tasse sul lavoro. Libero invece ha una prima pagina che devo anche descrivere. Il titolo è Ecco la linea del PD. Io l'ho pubblicata, se volete, anche sul mio profilo Twitter, Alino Milan, la foto. E la linea del PD è una mano che fa un dito medio. Proprio quel dito medio, no? Avete capito? Però in realtà si gioca sul fatto che il dito medio che verrà durante il voto, presumibilmente segreto per Berlusconi, per la vicenda Berlusconi, verrà diciamo messo, esibito questo dito in alto dai parlamentari del PD per far vedere che, seppure col voto segreto, stanno votando secondo quanto il partito ha detto di votare. Vabbè, se volete troverete tanti articoli sulla Concordia. Come detto, in realtà è la classica situazione in cui l'evoluzione degli eventi e della cronaca supera la lettura dei giornali, però ci sono tanti articoli per chi per esempio si vuole appassionare a questa operazione di, come è, Par Buckling, come diavolo si dice, insomma l'hanno rimessa in piedi, ecco, anche se una nave non ha le zampe. Il Sole 24 Ore racconta, per esempio, con Silvia Pieraccini, l'operazione tutta made in Italy: Fincantieri, Cimolai, Rosetti, Nuova Olmec, tante altre le imprese in prima linea nel recupero. Quindi se volete sapere anche quanto è costata, 600 milioni la rotazione, a questa cifra andranno aggiunti in futuro i costi di smaltimento. Il personale coinvolto è stato di 500 persone, tecnici, ingegneri subacquei, equipaggi di 30 mezzi navali. In tutto le tonnellate d'acciaio contenute nel relitto della Costa Concordia sono 40-45 mila le tonnellate. Insomma, tutti i dettagli potete scoprirli anche per chi è appassionato della tecnica di questa operazione. Così interpretiamo il canto del relitto. Ecco la storia anche sul Corriere a pagina 5, raccontata da Marco Gasperetti, dei 13 esperti venuti dal mondo, capitanati da Nick Sloan, il Senior Salvage Master, capitano delle operazioni, che ha curato questa difficile operazione. In tutto questo tutti i giornali fanno notare il silenzio di chi? Di lui, il comandante Schettino. Difficile che non abbia seguito in TV, quasi impossibile che non abbia seguito, anche perché ogni programma, anche questa mattina, se girate sui programmi di informazione, se accendete la TV, vedrete il relitto della Concordia rimesso in asse. È difficile che non abbia seguito anche lui, però in silenzio, anche sta preparando l'udienza del processo del 23 settembre. Il quotidiano nazionale titola: il silenzio di Schettino barricato in casa in attesa del processo. E Repubblica invece va a fare a pagina 4 una cronistoria di dove sono andati a finire i protagonisti, no? Da Schettino, che è appunto sotto processo, Ciro Ambrosio, vi ricordate, a nemmeno 30 anni era il vice comandante della nave da crociera, guadagnava 7.000 euro al mese, ora lavora sempre per la costa ma a terra, perché la capitaneria gli ha ritirato la patente, e ogni mese riscuote 1.600 euro, quindi da 7.000 a 1.600 euro. Dominica Cemortan, 25 anni, l'amica di Schettino su cui tanto si è chiacchierato, la bionda misteriosa che aveva cenato con Schettino la notte del naufragio, si è costituita parte civile, ora si lamenta: sono disoccupata per colpa di questa storia, non riesco più a trovare lavoro. E poi anche gli altri, sempre al suo posto, il comandante De Falco, quello del salga a bordo, no, alla capitaneria di porto di Livorno, il capitano De Falco, che lavora sempre lì, ha seguito da lì le operazioni. Insomma, tutti i protagonisti, anche quelli minori, che fine hanno fatto, li trovate a pagina 4 di Repubblica. Vabbè, a parte la Concordia, udite udite, cari italiani, alle 18 di oggi i 35 diventati 33 saggi con i 7 scribi e l'uomo di raccordo dovrebbero rilasciare, con conferenza stampa del ministro Quagliariello, il documento per il quale si sono rinchiusi anche in conclave 3 giorni, Francavilla a Mare, Villa Maria, 4 stelle superior, 20.000 euro pagati da voi per questi 3 giorni, ma è tutto pronto per la bozza che hanno partorito, perché i saggi pensano, ricordate D'Onofrio, pensano, no? Come ci disse qui, i saggi puntano sul premierato. Ecco i primi dettagli, pagina 14 del Sole 24 Ore, prevedono la revisione del titolo quinto, propongono di diminuire i parlamentari, propongono una riforma elettorale con un sistema proporzionale con voto di preferenza che garantisca un'adeguata presenza femminile, lo sbarramento al 5%, un premio di maggioranza per chi raggiunge una soglia da definire tra il 40 e il 50%, e se nessuno raggiunge questa soglia si va al ballottaggio tra primo e secondo partito o prima e seconda coalizione. Questa ipotesi, che era stata lanciata anche da Roberto Dalimonte sul Sole 24 Ore, pare, scrive lo stesso Sole, che sia uno dei punti cardine dei saggi. Eccolo qui anche sulla Stampa: riforme, le scelte dei saggi, premierato e leggi blindate, c'è anche il taglio dei deputati, la bozza sarà presentata oggi, finalmente, oggi, tutto deciso? No, con calma, questa bozza, perché i parlamentari, i saggi pensano, questa bozza di lavoro verrà trasferita al neonato o neonascituro comitato dei 42 parlamentari che dovrebbe insediarsi entro la fine dell'anno. Questo comitato dei 42 parlamentari dovrebbe discutere circa 18 mesi o 12 mesi, insomma più o meno così, per prendere le opportune decisioni sulla base delle soluzioni proposte dai saggi. Anche sul Corriere, dai saggi tante opzioni, ecco la bozza della relazione finale, spunta il premierato oggi. Abbiate pazienza e finalmente il parto dei saggi pensanti arriverà. Il Sole 24 Ore ha fatto un po' di conti con Dino Pesole a pagina 7 e il titolo è già emblematico: caccia 6 miliardi entro fine anno, servono 6 miliardi di euro. Io al solito metto a lor signori a disposizione 2 eurini con i quali giro in che tengo in tasca e con i quali giro. Se vogliono di più, insomma, non me la sento, ecco, ma i miei 2 eurini sono sempre a vostra disposizione. Dino Pesole: nonostante il peggioramento del ciclo economico che provocherà nell'anno in corso una contrazione del PIL tra l'1,7 e l'1,8% contro l'1,3 stimato in aprile, il governo conferma per fine anno il target di un deficit nei dintorni del 3% del PIL. Dunque si rimarrà secondo le previsioni nei parametri europei. Si renderà necessario però, scrive Pesole, un aggiustamento in corso d'opera di pochi decimali che il ministro Saccomanni prevede di mettere in atto con una manovra, non con una manovra correttiva vera e propria, quanto con una rimodulazione di spese e interventi su alcuni capitoli di bilancio. Il dato di fatto però che servono 4 miliardi da qui a metà ottobre per far fronte alle prossime scadenze in agenda, 1 miliardo per prorogare a tutto il 2013 il blocco dell'aumento di un punto dell'IVA, se si deciderà in tal senso, 2,3 miliardi per abolire la seconda rata IMU di dicembre, 700 milioni per rafforzare i fondi per la CIG e finanziare le missioni internazionali nell'ultimo trimestre 2013. Quindi questi 4 miliardi servono subito. E poi altri, insomma, si arriva a 6, ci sono tutti i calcoli sul Sole 24 Ore, entro la fine dell'anno. Ecco, a proposito di IVA, allora, il tormentone per il momento è stato appianato un po' dalla vicenda Berlusconi e sopito, no? È lì sotto traccia. Questo io pensavo più un tormentone quotidiano: aumenterà o non aumenterà l'IVA il 1 ottobre? Letta ieri ha detto in pratica 2 cose: ha detto che si lavora per non farla aumentare, ma ha detto che la vicenda è complicata. Ecco, la vicenda è complicata. Per scongiurare l'aumento dell'IVA il 1 ottobre, lo ha detto a Porta a Porta, è andato da Bruno Vespa. La storia è complicata. Questo è il titolo della Stampa. Stop all'aumento dell'IVA, la storia è complicata. È cauto il Premier. Secondo il Giornale, addirittura, il titolo viene messo in prima pagina: il Premier nei guai su IMU e IVA, pensa alla stangata benzina. Ora, io voglio pensare che un qualsiasi premier, non solo italiano, nel mondo, non si voglia così male a tal punto da pensare a una stangata sulla benzina per scongiurare l'aumento dell'IVA. Così giura il Giornale. Non si sa se è una pressione anche politica. Il governo rischia l'autogol sulle coperture, spunta l'ipotesi di ritoccare le accise sul carburante. Questo scrive il Giornale con Antonio Signorini a pagina 8. Ripeto, non voglio pensare che un governo si voglia così male, a tal punto voglia farsi così del male, politicamente parlando, da pensare a un ritocco delle accise sul carburante per scongiurare l'aumento dell'IVA. Sta di fatto che però, cari italiani, qui la dimostrazione che si viaggia e si naviga a vista e anche a vista ridotta la dà anche il Messaggero. Il Messaggero titola così a pagina 7: il rincaro IVA scatterà dal 2014. E sì, perché noi stiamo pensando e stiamo parlando di riuscire a scongiurare l'aumento dell'IVA previsto dal 1 ottobre, ma scongiurarlo entro il 2013, cioè per tutto il 2013. Poi dal 2014, quindi tra 3 mesi, non tra 50 anni, ma tra 3 mesi, il problema si riproporrà e saremo tutti da novembre a dire: scatterà dal 2014 l'aumento dell'IVA che, chissà, magari fino al momento abbiamo scongiurato fino alla fine dell'anno. Così si naviga a vista di 3 mesi in 3 mesi. Secondo il Messaggero, Giusy Francese, a pagina 7, l'aumento dell'IVA non è scongiurato. Seppure si riuscirà a evitare il maggior carico previsto da ottobre per gli ultimi mesi dell'anno, il rincaro nel 2014 è decisamente più difficile. A gelare le speranze direttamente il Presidente del Consiglio: la vicenda è complicata, si tratta di cifre molto elevate, così ha detto Letta, e il Messaggero l'ha tradotto come dire: forse, cari italiani, ce la facciamo entro la fine dell'anno a scongiurarla. Ma poi no. Verrebbe da fare una battuta, e cioè che queste grane si lasciano sempre ai governi che arrivano dopo, quelle dell'IVA, dell'aumento dell'IVA. In realtà, più che una battuta, è una possibilità, perché il termometro della crisi politica segnala un pochino più tempesta rispetto a ieri. Come sapete, attraverso i giornali il termometro della crisi politica in Italia vira e cambia dal sereno al variabile, al tempesta, al sole pieno nel giro di 12 ore. Ogni 12 ore siamo così impazziti che si racconta al mattino che c'è la crisi di governo imminente, al pomeriggio che è tutto congelato. Comunque Letta ha parlato anche di questo in intervista Porta a Porta, ha detto: non farò il parafulmine, sento venti di crisi e non possiamo solo essere io e il presidente Napolitano a fare i parafulmine di questa situazione. Situazione in bilico, serve responsabilità. Intanto ovviamente si riferiva alla vicenda Berlusconi decadenza. Domani in giunta ci sarà il primo voto, non è il voto decisivo, continua a dire: state tranquilli, state sereni, domani sera non succederà nulla di concreto e decisivo sulla decadenza di Berlusconi, a meno che di fronte a una decisione sfavorevole a Berlusconi lui voglia far saltare, come dire, le carte in tavola e far saltare tutto. Ma sulla decadenza tecnicamente non succederà nulla fino a metà ottobre o fino alla fine del mese, almeno il primo voto e fino a metà ottobre molto probabilmente la vicenda si capirà lì dal punto di vista tecnico. Sta di fatto che Letta dice: non farò il parafulmine, e sta di fatto che arriva il tanto atteso, annunciato, limato, riveduto, corretto, forse fatto in due versioni, videomessaggio di Berlusconi. Pare che oggi Berlusconi arriverà a Roma e attorno alle 11:12 tutte le redazioni dei più importanti telegiornali verranno raggiunte da questo videomessaggio di Berlusconi. Pronto il video di Berlusconi? Pagina 15 del Sole, ed è scontro sul voto palese, ma sul voto vedremo tra un attimo. Berlusconi anticipa la giunta, oggi in onda il messaggio TV, così giura il giornale, e al giornale dovrebbero essere abbastanza informati. Nel messaggio, scrive Francesco Kramer, ci sarà un appello per una nuova battaglia di libertà, per riformare la giustizia, l'annuncio della nascita di Forza Italia, e secondo l'indiscrezione lanciata da Dago Spia, Berlusconi sarebbe orientato a dare il timone organizzativo di Forza Italia, indovinate a chi? Indovinate a chi? All'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, così almeno racconta il giornale. Un partito che ieri Daniela Santanchè ha anticipato sul giornale Il Tempo, in un'intervista: sarà un partito senza segretario, presidenziale, senza lacci e lacciuoli di segretari. Vabbè, insomma, è una forma di democrazia 2.0 dei partiti. Questa intervista ha già fatto molto arrabbiare all'interno del Popolo della Libertà, con la solita fronda anti-Santanchè. Comunque, retroscena a go-go per la Repubblica. Oggi il videomessaggio di Berlusconi, che però dice: non sarò io ad aprire la crisi, e dunque un videomessaggio nel quale Berlusconi non romperebbe. Berlusconi oggi il video, anche per il Corriere, l'ipotesi di missioni. Insomma, retroscena, ma stando alla cronaca bisogna aspettare solo qualche ora, poi in tarda mattinata o in mattinata arriverà questo video. Anche per il Fatto Quotidiano, la vigilia di Berlusconi, va ora in onda la trattativa. E mentre per il giornale il pool difensivo sta parallelamente cercando di convincere Berlusconi a accettare i servizi sociali, e fa sapere Paolo Bracalini a pagina 4 del giornale che sono già molte le offerte giunte da varie onlus. Unico vincolo sarà l'orario: nel caso Berlusconi dovrà rincasare entro le 20 e uscire di casa dopo le 7-8, praticamente uno studente di quinta elementare. C'è la guerra, la battaglia. Taglia sul voto: sarà palese, sarà segreto. Il regolamento dice chiaramente che se, credo, 20 senatori chiedono il voto segreto sulla qualsiasi vicenda, come la vicenda il voto a Berlusconi in decadenza, ci vuole il voto segreto. Questo dice il regolamento, finché non si cambia è così. Addirittura sulle questioni personali che riguardano le persone il voto segreto mi risulta sia quasi automatico. Comunque sarà voto segreto. segreto, c'è la battaglia dei grillini che dicono cambiamo il regolamento, tutte le contromosse dei senatori PD per scacciare l'incubo dei franchi tiratori, nell'urna solo l'indice o palline di carta. Ecco, stanno, questo è il titolo di Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 9, si sta già ingegnando per far vedere che uno vota come il partito dice di votare. Cosa potranno fare? Mettono un dito sul bottone e l'altro alzano la mano facendosi fotografare, così con una mano, con un dito solo uno può votare solo una cosa. Oppure mettono, cos'è sta storia delle palline di carta, non voglio neanche immaginare, non voglio neanche leggerla. Addirittura c'è il segretario d'aula del Popolo della Libertà che dice attenzione ai suoi, passerò tra i banchi a controllare, manco i bidelli della quarta elementare facevano così durante i dettati o in terza media o in terza liceo quando si cercava di copiare il compito di matematica di latino. O la versione di latino, passerà il segretario del PDL a controllare in aula, come farà a votare tra l'altro se intanto è intento a controllare i banchi. Libero la traduce così, la sinistra ridotta alla linea del dito medio, e gioca su questo fatto. In prima pagina di Libero c'è un pacato dito medio, proprio il dito medio, insomma, avete capito, alzato, a caratteri cubitali. Se volete vedervi la foto andate sul mio profilo Twitter Alino Milan, io l'ho pubblicata. Ecco la linea del PD, è un dito una mano che alza un dito medio, si gioca sul fatto che questo dito medio potrebbe essere la dimostrazione che seppur nel voto segreto quelli del PD votano come il partito dice loro di votare o come dovrebbe essere la linea del PD. Insomma, tutto questo dibattito su voti, non voti, mannaggia ragazzi, vabbè, e siamo ancora lontani dall'idea del voto. Pensate quante ne sentiremo da qui alla fine. Grasso, cioè il presidente del Senato, dice anche un'apertura, il voto segreto si può cambiare. Comunque, al martedì 17 settembre alle 7:51 il regolamento dice che c'è il voto segreto, poi se si cambia il regolamento questo vi terremo informati nelle prossime puntate. C'è tutta la vicenda legata all'Ilva e ai Riva. Questa è una cosa concreta che riguarda migliaia di lavoratori, migliaia di imprese dell'indotto, come racconta pagina 2 del Sole 24 Ore Matteo Meneghello, l'indotto siderurgico a rischio paralisi con tutte le filiere coinvolte, i lavoratori. E ci sono due segnalazioni che voglio farvi dai giornali, sempre il Sole 24 Ore, con le ipotesi per sbloccare Riva Acciaio. Marzio Bartolone e Carmine Fotina ne parlano a pagina 3. Due strade per salvare gli stabilimenti di Riva Acciaio. La prima passa per un chiarimento già oggi col custode giudiziale per capire i reali margini per riprendere la trattativa. La seconda, al momento considerata estrema ratio e tecnicamente non semplice, passa per il commissariamento. E dall'altra parte vi segnalo anche il Manifesto, che mette questa storia in prima pagina con il dramma dei lavoratori che per l'ennesimo giorno, anche ieri, sono rimasti senza lavoro, si trovano ovviamente in una situazione senza lavoro, vittime certamente di una situazione per la quale non sono per nulla colpevoli, e loro e le loro famiglie sono ovviamente in estrema difficoltà dal punto di vista umano e concreto dal punto di vista economico. E questo ve lo segnalo, senza Riva, questo è il titolo di prima pagina del Manifesto. Ma siamo, credo, alla chiusura con l'ambito premio La Carta Costa, e cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali di oggi. E oggi stravince Enrico Franceschini su Repubblica, un'intera pagina sotto questo titolo, Il cane tradisce l'uomo, fedele anche a un robot se gli offre da mangiare. Avete capito, cari ascoltatori, è stata fatta una ricerca addirittura in Inghilterra, dunque immagino pagata con soldi pubblici, voglio sperare di no, ma temo proprio di sì. Si dice il cane scodinzola quando l'uomo o la donna, il suo padrone, padroncino, gli dà da mangiare. Ma attenzione, è stato fatto un esperimento, è stato messo un robot con sembianze umane che porta la ciotola al cane, e il cane traditore, scodinzola pure al robot, facendo crollare questo mito della fedeltà assoluta del cane al padroncino. E allora in questa ricerca si chiede: ma come ci siamo sbagliati per secoli sull'amicizia del più domestico degli animali nei nostri confronti? Non necessariamente, dicono gli esperti. Forse questa ricerca addirittura fa adombrare un sospetto, che sono talmente intelligenti i cani che capiscono che quello è un robot. Ma e allora perché scodinzola? Non lo so, mi sono perso, cari ascoltatori. Però su Repubblica una pagina intera, pagina 21, amici di Repubblica. Ma allora non siete attenti, non avete capito? La carta costa, ricordatevelo.